Radio Wombat e questa è Hot Perez. Radio Wombat. Perez. Hot Perez. We'll be right back. Eccoci qua, buonasera amici radioascoltatori, siete su Radio Wombat e questa è 8 Hertz. Abbiamo iniziato un po' in ritardo perché stasera abbiamo un ospite qua e come tutti gli ospiti si fanno attendere. Abbiamo qua Bad Girl, aka Leonardo Granchi, che era già venuto l'anno scorso, un paio d'anni fa, non mi ricordo, a proporre il suo disco passato e adesso è qua a proporre questo perché è molto simpatico e bellino chiacchierarci insieme. Ciao Leonardo. Ciao, buonasera. Buonasera, in realtà non sono timido, forse un po' simpatico, ma... Dai, c'è una regia molto meglio rispetto alle volte scorse. Sì, lo ricordo. Tra l'altro ci doveva essere la rotella, vi avevo promesso la rotella, un nuovo volume, ma ebbene sì, le mie promesse non vengono mantenute a questo punto, ma la faremo, spero presto, o le rifaremo, spero presto, più di una. Si diceva Bad Girl che è qua perché ha fatto uscire il suo secondo disco, uscito a maggio nel 2018, che si chiama Borders, solo in CD, che ha solo tre lunghi brani. Questo era Sleep... Quattro. Oh, va tagliato bene, uno. No. Questo era Sleep... Non ti piaceva quello che era tagliato? Mi piaceva, no. Questo era Sleep... E tra l'altro prima nel 2016 fece uscire questo disco che insomma ne parlarono bene, che si chiama Cosmi, prodotto da Diodrone, Mutu Conspiracy, Tottenham Records, in vinile e CD allegato. E a questo giro invece solo CD. Parlaci anche di questa scelta. Ecco, non ci avevo mai pensato. No, in realtà sì, era avevo pensato fin dall'inizio di fare questo piccolo percorso, di far uscire il primo in vinile, secondo il CD, il terzo che chiuderà questo capitolo, che dovrebbe essere un viaggio di tre tappe, di nuovo in vinile. Questo, diciamo, è l'unico un po'... Però non c'è nessun motivo particolare. Forse anche per le durate dei brani, non lo so. Sì, anche... però mi piaceva fare questa situazione di creare questi due supporti grandi che stanno ai due estremi e visivamente mettendoli accanto, no? Tipo una costellazione. Sì, come disco. Un po' la copertina dell'ultimo album, che appunto ha questi monoliti, queste sculture. Esatto, dovrebbe essere appunto un percorso. Poi col terzo, se avrete pazienza di aspettare 20 anni, quando lo vedrete, ci sarà un filo conduttore, comunque un tema comunque un po' vagamente astrale, comunque qualcosa che richiama a questa situazione dei cosmi, di Borders, che sono i confini. E poi l'ultimo capitolo, che sarà un'immersione in un nulla, che ancora devo capire bene come... Ma poi dopo cambi tutto. Poi divento donna. finalmente, come il nome suggerisce. No, non cambierò probabilmente niente, non lo so, non mi sono prefissato nulla, quindi vediamo. Intanto volevo chiudere questo capitolo di tre parti. Questo disco è uscito Questo disco è uscito per Diodrone e Totes One. Okay. E il prossimo, spero, vedrà altre etichette coinvolte, perché con questo lavoro sono riuscito a trovare un po' di contatti e persone interessate a questo lavoro che si offriranno di fare delle coproduzioni. Vediamo in che sistema, in che modo. Riguardo a questo, a parte mi sembra come disco rispetto a Cosmi, che era molto più incentrato sui synth, qui c'è una buona dose di Fields Recordings. Sì, li ho usati molto di più in questo caso. Era un po' materiale fatto ad hoc per il disco, altro era materiale che avevo già registrato a suo tempo. Quindi sì, comunque c'è una scelta stilistica un po' diversa, sì. Infatti è anche un pochino forse più difficile all'ascolto rispetto all'altro. È più estremo, sì. È un pochino più estremo, sì. E poi, tra l'altro, non è l'unica cosa che hai fatto, ma ne hai fatta una che è anche grossina, nel senso che ha smosso un po' di altri musicanti. Per la tua etichetta, che si chiama Dire Graft, no? Sì, Direcraft. Ah, Direcraft, sì. Ho visto che ha fatto quattro uscite, mi pare. Ha fatto una cosa tua, credo in CDR, se non sbaglio. Session 31, Sì, esatto. Bella giusto? pronuncia, Yang. Esatto. Pronuncia. Poi un disco ganzo che è sempre Bad Girl insieme a Zev, si chiama Elementi Contro Contronegativi, Negativi. sì, che era il titolo del festival di Di Diodrone Diodrone. da cui è stato tratto, che ho fatto questa collaborazione con lui sul palco. Poi We Want the Airwaves Back con Autodate, Esatto, di una serata fatta insieme. Ok, appunto proprio per una serata per Radio Wombat in cui era la festa di Radio Wombat dove Esatto. c'erano anche i famosi CCC, CNC, NCN, volevo fare una puntata ma ancora non sono riuscito a Ci farla, riuscirai? ci riuscirò. Sì. E poi ultimo ma non ultimo, l'ultima uscita che è un'uscita sempre a quanto ho capito sempre un po' È in corso in d'opera, corso sì. d'opera, si Infatti per chiama... ora solo online con Sono i brani. online, si chiama The Manufacturing Borders, ovvero sono dei remix di altre persone di Borders. Chi li ha fatti uscire per ora? Allora, praticamente questo progetto qui era partito da una vecchia idea di fare dei remix. È sempre una cosa che mi è piaciuta, quella di coinvolgere anche altri progetti simili o no nel provare a vedere che cosa succedeva dandogli in mano il materiale da me edito. Per il momento questo è uscito solo online, quindi solamente su internet ascoltabile. Tra un po' cercherò di fare delle stampe e vediamo come, in edizioni limitate su supporto fisico. Per il momento hanno collaborato Lorenzo Abattoir, ha collaborato Mono Cannibal, che è un artista spagnolo, ha collaborato Mattias, che è un ragazzo tedesco. Poi abbiamo Porborn, che è dei ragazzi di Londra, anche se originari italiani. Poi abbiamo i Dolpo, che hanno già consegnato il materiale, gli Ambassador 21, Nautodate e Nareshran. Se vuoi ti dico come ho fatto a fare questa cosa, se no... No, intanto mettiamo un pezzo appunto del tuo disco. In realtà le mettiamo, cioè, lo stesso pezzo due volte, remixato due volte. Sì. Il primo è proprio di Ambassador 21, che sono un gruppo attivissimo bielorusso che poi si sono spostati nel corso degli anni in varie città Adesso Praga, sì. europee. Adesso a Praga, sono venuti anche a Firenze a suonare qualche volta. Hanno appunto fanno un genere abbastanza aggressivo. All'inizio erano avvicinabili agli Atari Teenage Riot come cosa, ovvero techno hardcore urlato. Adesso sono forse un pochino più Sì, sull'hardcore, sì. un pochino più elettronico, un pochino più tornato alle origini del genere, diciamo. Comunque facciamo sentire intanto RWO, che RWO, sì. Lo non so cosa vuol dire, di svelo dopo. sveglio dopo di Ambassador 21. Thank you. Gli Ambassador 21 hanno fatto questo remix che è down tempo, tipo deep down tempo, una cosa parecchio bass bassa che sta quasi immobile, ma comunque mossa da questo ritmo che ci hanno ricostruito sopra loro. Che dici? Non so. Ma sì, hai detto bene. Ci hanno lavorato tanto, cioè hanno stravolto tanto loro. Alcuni remix sono più fedeli all'originale, altri sono completamente rimodellati. Alcuni, tipo quello di Mattias, è diciamo le singole tracce semplicemente passate dentro un filtro. Quindi lì per lì non avevo capito che lavoro aveva fatto. Poi riascoltandolo mi sono accorto che era una cosa molto interessante, però era tipo una distorsione unica Sì, sul master sul tipo, master quasi, sì. sì. E quindi interessante questa cosa. Loro hanno spezzato, hanno tagliato, hanno aggiunto batterie, hanno aggiunto strumenti. È stato un lavoro Un po' nello interessante. stile loro, a parte che Sì. raramente fanno pezzi così lenti, Sì, diciamo, è che vero, sono velocissimi di solito. questo mi ha stupito un po', sì. E invece dopo hai voluto mettere la versione di Notodate. Esatto, sì, mi interessava per, a parte sono tutte e due, mi piacciono tutti alla fine perché non ho mai fatto una distinzione di uno più bello dell'altro perché sono comunque brani miei sentiti, manipolati da persone che ammiro e apprezzo musicalmente, mi aspettavo che fossero tutti molto, molto interessanti dal mio punto di vista. Quest'altra versione è per far sentire, diciamo, come due menti, anche se vicine, simili come gusto e tutto quanto, possano interpretare una cosa in maniera totalmente differente, tirare fuori due stili completamente irriconoscibili tra di sé e anche dall'originale, che ora non abbiamo sentito, ma è molto diverso da quello che avete sentito di Ambassador e quello che sentirete di Notodate ora. Allora la mandiamo intanto, Mandiamolo, anche sì. Quasi questa è una versione lunga, credo più o meno quanto quanto l'originale, l'originale. più o meno. E ascoltiamocela, è sempre RWO che non ci ha detto cosa vuol No, dire. ve lo dico Vabbè, dopo. i Notodate. Thank you. sinistra la versione di noto date molto più harsh e orrorifica, diciamo, anche glitchatissima. Si diceva, noi ti abbiamo, non volevi aggiungere qualcos'altro, non lo so, Bu. No, che RWO è un'abbreviazione di Rain Wind Oscillator, che trae questo nome dal fatto del field recording di cui si parlava prima, che è la parte predominante di questa canzone, dell'originale. Cos'era? Pioggia, vento? Era pioggia, vento, filtrati da un oscillatore di mia produzione. Grande. Quindi, tornando a quello che si diceva prima, che ho questo giro ho aggeggiato tanto con i registratorini portatili, registrando casualità del mondo. È che, tra l'altro, ti abbiamo preso qua a Radio Wombat un po' al volo, perché sei appena ritornato da un tour al sud Italia di quante date? 10 in tutto. Di 10 date, abbastanza serrato. Molto. Abbastanza serrato. Abbastanza serrato. Con appunto molto. Petrolio, che è Enrico Serrato, che sta suonando tantissimo a giro. E insomma, a quanto pare mi dicevi è andata bene. Non so, insomma... È andata molto bene, sì. Ringrazio Enrico per tutto lo sbattimento, perché il 90%, anzi il 99% di questo tour l'ha organizzato lui, quindi come sappiamo nel nostro settore, con 20 milioni di mail, tanti contatti, tante telefonate per cercare di trovare queste date, una attaccata all'altra, quindi sono stati 10 giorni di fila con distanze molto lunghe una dall'altra. Magari ha guidato sempre lui. Magari no, questo giro ce la siamo un po' divisa. Quando siamo andati in Germania, insomma in Europa, l'anno scorso ha fatto più che altro lui. Quest'anno ce la siamo un po' divisa in maniera più equa. E è stato un bellissimo giro, sì. Io non avevo mai suonato al sud e ho scoperto una realtà che già conoscevo, ma non in prima persona sui palchi. E quindi conoscevo bene e conosco bene molte persone che provengono da lì, abbiamo incontrato in altre serate o amici anche al di fuori della situazione musicale, quindi sapevo un po' l'accoglienza umana che c'era al sud. Quella relativa ai live è stata molto bella, perché c'è stata l'unione di quello che è il lato umano insieme a quello che è il lato, diciamo, sentimentale, professionale dell'ascolto e dell'organizzare un evento in spazi più o meno piccoli che potessero essere. Abbiamo suonato in situazioni molto stile pub, con palco a terra tra la gente, fino a situazioni molto più grandi con impianti grossi e situazioni di stage importanti. Però il calore e la situazione è sempre stata la solita. Quindi andate a sud. Andate a sud, a suonare se ci riuscite, perché non è facile organizzarsi. E organizzare, però appunto per quello è anche molto più sentita rispetto ad altri posti molto popolati da live. Esatto. Qualcuno ci va quasi perché non sa che fare la sera, mentre lì sono eventi veri e propri. Sì, ti aspettano con... Che suonano, andiamo a vederli, sta roba qui non sì. Si sente, è difficile sentirla. E si diceva di Petrolio, che è appunto progetto solista come il tuo, sì. Che è al secondo album, in realtà il secondo è una carriera album di pari passo, praticamente. Di pari passo. Il primo è del 2017, anche se lui suonava negli Infection Code, si chiama Di cosa si nasce, per Dreaming Gorilla Records e È un posto brutto dove vivere, e poi per Chanor Bennett Label, che è un'etichetta digitale, credo cilena, sì. Che produce un sacco di compilation e cose solamente online. Poi ho visto su Discogs ha fatto uno split con Mademoiselle Bisturi per Luce Sia del 2018, con lato A, tra l'altro con un pezzo di insieme a Daniele Santagiuliana. E nel 2018, ora è uscito, non so come si pronuncia, L più ES, non so. Sì, sarebbe l'esistenziale. Ok, l'esistenziale, ma ce l'aveva il Ce disco? l'aveva, era diciamo la release, quindi Era sì, la release, però ora adesso è uscito per ufficialmente è tutti, diciamo, uscito, che ha sì. fatto una cosa un po' strana, ovvero è uscito sia in vinile che in cassetta, però con brani differenti. Tanto i brani sono fatti, mi pare, due brani a testa, cioè lui insieme Ad ad altri, altri. praticamente è un po' come la situazione di The Manufacturing Borders. Anche lui ha fatto queste situazioni di remix, anche se non sono veri e propri remix, dati in mano a artisti di Dato in mano a vario genere. gente parecchio grossa, c'è cioè Aidan Baker dei Esatto. Nadia, Sigillo Mess, Jochen Arbeit Ai de Surzende. Sturzende, e Mai Mai Mai, Fabrizio Modenese Palumbo e Naresh Ran. Esatto. Mettiamo due pezzi da questo disco. Il primo che hai scelto è un brano che si chiama L'Eterno non è per sempre, ad opera insieme, diciamo, a Fabrizio Modonese Palumbo, che insomma anche lui è un musicista abbastanza conosciuto nel giro, e oltre al progetto R prima suonava nei Larsen, che ogni tanto continuano a suonare, ha suonato insieme a North Sweet Wound, Swans, insomma c'è un curriculum bello tosto, diciamo. Non so, vuoi aggiungere qualcosa sul pezzo o lo facciamo No, sentire? facciamolo sentire, almeno entriamo nella situazione di quello che è accaduto nel tour a sud. Lui faceva queste cose, io quelle che avevo sentito poco prima, quindi Ok, bella. L'Eterno non è per sempre, Petrolio insieme a Fabrizio Modenese Palumbo. Thank you. questa versione appunto come elemento dominante è appunto la chitarra, che è lo strumento un po' preferito e principale di Palumbo, secondo me, ma non so. E te avevi scelto anche un altro pezzo per far sentire un po' le sonorità varie di questo lavoro appunto particolare, per cui, per farvi capire, due pezzi insieme a Palumbo, sia in vinile che in cassetta, ma in cassetta sono altri due pezzi, diciamo. Cioè, sì, esatto, perché le tracce in tutto sono 12 e lui le ha divise 6 su vinile e 6 su cassetta. Scusa, un pezzo a un pezzo artista, esatto. È tutta roba che tra l'altro sto ascoltando per la prima volta, perché non ho niente, diciamo, del disco nuovo. E l'altro pezzo che hai scelto invece è insieme a Mai Mai Mai, credo questo tratto dalla cassetta, se non sbaglio. Mi sembra che sia della cassetta, sì, se non ricordo male. Comunque poi vi andate a vedere, ho visto che c'era tutta una preview completa sul rumore online, per cui esatto. Potete ascoltarla anche lì. E, si chiama Mai Mai Mai, Antonio Tricoli de Roma. De Roma. Un personaggio abbastanza conosciuto da quelle parti, anche in Cina. Sì, è vero, ha avuto questa esperienza. Son molto belle le cose che fa Mai Mai Mai, o che avevo ascoltato precedentemente, soprattutto un disco che ora non mi ricordo come si chiama, perché forse ha un titolo in greco, se non sbaglio. Comunque vabbè. Quindi non Petra? Forse era Petra. Petra? Forse. Forse. Vabbè, comunque, non me lo so segnato, mi dispiace, scusami, mai, mai, mai. Cos'era sto rumore? Senti, eri te? No. Sta esplodendo qualcosa. No, era tipo come se ci fosse un animaletto, un topino dentro i computer. Io non l'ho sentito, quindi che gira è nella fantasia, però. E insomma, non divaghiamo. Mai, il pezzo si chiama Cut the Moon, taglia la luna. Adesso lo ascoltiamo, l'ascolto per la prima volta, appunto, è la partecipazione su Brani di Petrolio dell'ultimo disco. E ascoltiamocelo. grande, quando passa mai mai mai sulle cose ci sono sempre questi beat troppo pesanti, troppo belli, secondo sì, me. Non reggibili da tutti gli impianti. Non reggibili da tutti gli impianti, ma se avete la fortuna di sentire mai mai mai dal vivo sugli impianti, sugli belli impianti. Esatto. Le cose sue suonano parecchio parecchio bene. Sì, è bello. Al Krakatoa infatti ho avuto forse la prima occasione di sentirlo su un impianto bello con dei bei suoni, con dei volumi importanti. Anch'io l'ho sentito anche lì, l'ho sentito anche altre volte, ma è interessante, sì. Tosto. Sì. E prima di andare avanti vi ricordiamo un po' che siete. Innanzitutto su Radio Wombat il programma si chiama 8 Hertz, dove appunto ogni puntata segue una sorta di percorso mentale, un trip un po' un po' guidato appunto da qua, da noi, da io, da chi c'è come ospite. Tutto su sonorità, spero un po' nuove per voi e anche percorsi sì, proprio differenti da quello che siete abituati a ascoltare. Sfido qualche radio a proporre le cose che vengono fatte qua. Bella la sfida, a questo programma. Sfido. E appunto le altre radio possono scrivere a postawombat@insiberia.net, vedi come sono sveglio. Scrivono le offese, tipo, ma come ti permetti? No, le altre radio, insomma, tutti possono scrivere, anche dire se vi piace qualche trasmissione, se volete anche crearne una voi. Poi c'è il Facebook, il Twitter, tutte queste robe da giovani. Comunque l'importante è che abbiate il sito e se ce la fate, ascoltate la radio in onde AM al 13:59 che fa sempre molta emozione sentirla magari in macchina. Sì, no, in radio bellissima, fa tanta bellissima. È un ricordo di anni passati, ecco. Tanti programmi, alcuni sono nati quest'anno che è il terzo anno di Radio Wombat, come oddio ho perso la cosa, Radio Contado, che tra l'altro è molto carina appunto su dinamiche contadini e agresti, diciamo. E insomma, poi potete vedere sul sito il palinsesto, che tra l'altro è molto dettagliato, è pieno zeppo di cose, e quando non ci sono c'è una bellissima scelta musicale molto molto varia. E oltre a alle dirette, come in questo caso, ci sono le repliche del programma altre due volte nel corso della settimana. 8 Hertz va in onda appunto giovedì sera alle 9:15, ma trovate la replica anche il sabato alle 15 e la domenica alle 21. Così per ogni programma che ascoltate in diretta, poi potete anche ascoltarlo altre due volte come replica. In più tutto viene registrato e archiviato appunto sul sito in forma podcast, per cui potete ascoltare tutte le trasmissioni di tutte le trasmissioni, tutte le puntate di tutte le trasmissioni, dalla nascita della radio a domani. Se vi va di ricercare o se vi piace un programma, insomma, quindi avreste da ascoltare per veramente tanto tanto tempo. E continuiamo. Ho chiesto a Leo, appunto Leonardo Bad Girl, con questa storia della Manufacturing Borders. Abbiamo ascoltato prima due remix e lui dice che non è ancora finito, per cui altre persone gli dovranno consegnare dell'altro materiale rimixato. Non finirà mai. Continuerò a chiedere a tutti. Gli ho chiesto dacci un'anteprima di chi appunto userà i tuoi brani e li rovinerà, stravolgerà, o migliorerà. Dei manufacturing, appunto. Allora, alcuni sono già pervenuti e ancora devono uscire. L'idea è quella di farne uscire uno ogni domenica a gruppi di quattro per richiamare i quattro brani del disco. e ci stanno lavorando in tanti, alcuni sono arrivati, tra poco avrete il piacere di averli sul Bandcamp dell'etichetta Direcraft. E quindi niente, ho scelto così a braccio tre che hanno già mandato il materiale ma devono ancora uscire. Tu eri contento di sentirli perché alcuni sono amici, altri sono amici Nemici? virtuali, nemici, sono amici virtuali ma di grande rispetto, soprattutto sì, il brano che hai selezionato in scaletta adesso, che è di Herman Akamatsots. Kamasots, lui si chiama Herman Klapots, credo Sì, sia, me cos'è, l'ero tedesco? riservato Dov'è, di dire il tedesco? Non è cognome. tedesco, È è polacco. polacco. E ormai suona da Cioè, tanto, scusami, è belga. belga, Sì. infatti. Suona da tanto ormai da credo metà anni 90 comunque. E fu uno della scena industrial che è partito da roba più rituale. Infatti, Akamatsots, tra l'altro, è un demone messicano che poi Esatto. è un po' il suo logo, che è Che sto pipistrellone sì, gigante. materializzato con la situazione del pipistrello, esatto. Che si chiama appunto Akamatsots. E ha fatto tanta roba che è passato da appunto musica rituale, ambientale, quasi tribale anche a roba più, diciamo, più Sì, elettronica, molto più danzereccia BPM come. molto veloce, alcune cose quasi ballabili proprio da rave. Insomma, ha fatto tanta roba perché suona veramente da tanto, è sempre attivo. E il brano che ho scelto si chiama Confession, che è un po' uno dei suoi cavalli di battaglia storici, credo, anzi non credo, è uscito come all'interno del primo disco suo ufficiale che si chiama Epitaph, che uscì per la Hands Production Hands. nel lontano 1997, Bah, quindi ah, giovani eravamo. no. Silenzio, perché ci stiamo Silenzio. pensando, 97, cavolo. 87, eravamo tutti allegri, Sì. eh? Comunque, sì, bel brano e lui gran personaggio, quindi molto disponibile anche a collaborazioni come è successo con me, nonostante sia appunto una persona che ha tanto da fare nell'ambito musicale, di Magari l'hai produzione, pagato. cioè, io l'ho pagato chiaramente, già quando avevamo pensato ai remix con Downward Desire Search, già lì c'era stata una parcella notevole, però ora ho incrementato un po', Poi non sono usciti, non per sono cui. usciti, quindi gli ho detto, guarda, vediamo se questo ti do altri 10.000 euro, vediamo che facciamo. Ovviamente è tutto vero. Chiaramente. No, No, ringrazio Herman davvero, che semmai ascolterà, però sì, molto sì. contento. Gli mandi una letterina. Guarda, Esatto. ho fatto la trasmissione 8 Hz. Akamatsots, che se non capite come si pronuncia, tanto poi lo leggerete nel podcast dove ci sono tutte le scalette. Confession. bello carico come pezzo, eh? Sì. Sì. Sì. Sì. Sì, stai sì. Attento. No, ero distratto, sta attento, Leo. Ero distratto, però sì. E ascolta, un altro ragazzo, che ragazzo non è più. Che ormai non siamo più ragazzi, anche se continuiamo a chiamarci così. Che partecipa al tuo lavoro di decostruzione di border, esatto, di demanufattizzazione del disco. Mi piace questa cosa di dare in mano le tracce a qualcuno e dirgli fai quello che ti pare, taglia, cancella, distorgi. Quest'altro musicista di Rovigo, che si chiama Moreno Padoan, che precedentemente aveva un duo che si chiamava Hardcore Machine. Sì, li abbiamo conosciuti, mi sa, sì. Entrambi in quella formazione, okay. Tanti anni fa. Che faceva roba più... Ma più sai ritmata, che mi ricordo poco, però sì, mi ricordo un bel po' di ritmo, abbastanza veloci, sì, BPM sostenuti. E poi ora continua con Oturboid, un altro Boyd, nome, esatto, del suo progetto. E anche come Moreno Paovan cura un altro aspetto un po' dell'elettronica, anziché distorsione e noise, è più concentrato su una sorta di ambient molto molto malinconico. Sì, e anche sì. Diciamo il proprietario, tra virgolette si può dire così, dell'Axonar Records, che è la sua etichetta. Ho trovato un pezzo che secondo me è molto bello suo, tratto da un disco proprio sotto appunto Moreno Paovan, che si chiama Until the Numbness del 2015. Il brano si chiama Anything? Sì, però ho scritto Any con la N-I, come se fosse un nome tipo Anita. Anything. Lo chiederemo. L'ho trovato molto bello e adesso ve lo faccio sentire. È un pezzo ambientale, quindi state molto attenti. Stateci dentro. Molto pianoforte anche, tra l'altro. Buon ascolto. Thank you. pezzo molto cupo, intenso, parecchio melodico di appunto Moreno Pauan, inaspettatamente, perché di solito lui fa ben altre cose, almeno quelle che ho sentito io, non sono espertissimo sulla sua discografia. E comunque anche lui contribuirà al disco, al progetto epico di Bad Girl di Manufacturing Borders, che appunto è il suo ultimo album. E concludiamo con l'ultimo pezzo, che rientrerà sempre nel rooster, come dicono oggi, di personaggi e di gruppi, in questo caso gruppi perché sono due, i fratelli Trimarchi. È una band? Sono due, sì, è una band. I fratelli Trimarchi di Luzu, a nome Luzu Lozo, tutto attaccato, siciliani di dove? Di Catania, zona Catania. Originariamente non lo so, però sì. Sono venuti a vedervi. Sì, con gran piacere. Siete andati su. Sono amici di entrambi. E sì, si sono fatti tutte e due live, sia la data di Jarre al Gru che quella a Catania al Burnout. Quindi vabbè, Jarre Catania è vicino, però insomma apprezzo l'impegno di aver sorbito questa cosa per due sere consecutive. E il progetto è molto interessante, io li ho conosciuti tra l'altro tramite te, quindi grazie che sei stato il tramite. E belle persone, bella musica, belle situazioni, e il remix che uscirà è molto molto molto bello, ma non lo ascolterete stasera. Infatti ti volevo dire oggi, ma perché non ci fai sentire? Perché ancora non è uscito, Non è che c'è la gente che si strappa, oddio. Io pensavo di sì, me l'avevi descritta così, uomo. Però vabbè, insomma, no, perché preferivo far sentire quelli ufficialmente già usciti, quindi questi nelle prossime settimane arriveranno. Nulla. No, stasera no. Così sono arrivato un po' corto di provviste. Meno male se è l'ultimo pezzo, perché sennò torni a casa in ginocchio. Questa è una sua osservazione, non è assolutamente vero. Però probabilmente il mio tono di voce è cambiato dall'inizio. Cioè, pensato bene di fare un pezzo, una birra, un pezzo. No, poi sono brani lunghi, voglio dire, in 10 minuti che fai, se no, se la canzone già la conosci, ti prendi un attimo di distrazione. Sì. Però alcune erano corte. Alcune sì. Sì. Va bene, comunque il pezzo quindi di chiusura di questa puntata in cui ospite Bad Girl, appunto, che promuoveva, anche se è una parola brutta, sembra che uno debba comprare le cose, sia mai. Però insomma, comunque la trovate, in vendita, la trovate a scaricare anche gratis, però. Tra l'altro sì, quindi sono una persona brava, sul Bandcamp, che il tuo Bandcamp è Bad Girl 69, sì. Che ce ne sono un fottio di Bad Girl, mi è sa. Una rovina, questo nome mi sta uccidendo. E poi c'è anche, come si dice, Dire Graft, sempre sul Bandcamp. Scritto Dire Graft. Sì, è la pagina dedicata alle uscite di lavori paralleli, inediti, improvvisazioni, collaborazioni e varie. Quindi gli album ufficiali sono sul Bandcamp di Bad Girl, gli altri li trovate su Dire Graft. Non ti chiedo cosa farai in futuro, perché l'hai già detto all'inizio, appena arrivato. Esatto, sì. Poi futuro breve, perché quindi comunque la domanda di rito finale non c'è. Però ci salutiamo, puoi venire quando ti pare. Grazie, qua. Io vi amo. Magari una volta bene. Si fa che non ascoltiamo niente che non è dedicata proprio a te, ma ascoltiamo va bene. Cose ci portiamo che ci un po' piacciono a entrambi, non solo a te. Assolutamente, si può fare, sì. Non è verità, si scherza. Comunque, mettiamo il pezzo Luzu, che tra l'altro è live al No Cage, che era un locale a Prato, suonato nel 2013, vedo. Mi pare che la qualità sia abbastanza buona. Chissà dov'ero, io non c'ero lì quella sera. Forse lavoravi. Come sempre. Interessante, sono curioso. E quindi ascoltiamoci Luzu, buonanotte, grazie di averci sentiti, ci sentiamo settimana prossima, se tutto va bene. Bene, grazie. Ciao. Grazie. Ciao.